Letture di Radio 24. Viviamo in un clima di nichilismo e di sfiducia. Ma quelli che si lamentano dei tempi attuali sono davvero sicuri che ci sia stata una mitica età dell'oro da rimpiangere? Si domanda Mario Calabresi nel suo nuovo libro Cosa tiene accese le stelle? Un viaggio nei ricordi di un passato recente nel quale si faticava a vivere, ma non mancava mai la fiducia in un futuro migliore. I più anziani hanno nostalgia del passato e provano rabbia verso il presente. I più giovani condividono la rabbia, ma la loro nostalgia sembra essere quella per un futuro che non c'è. Così, in questa Italia del nuovo millennio, nel paese che ha compiuto 150 anni, l'umore più diffuso è lo scoraggiamento accompagnato dal disincanto. Viviamo spaventati, impauriti, in difesa, con il terreno che ci frana sotto i piedi, convinti di essere capitati nella peggiore stagione della storia, la più violenta, la più insicura, la più minacciata, la più cattiva. Siamo talmente immersi in questo presente che ci sfinisce da aver perso il senso del tempo. È scomparsa la memoria del passato e con lei anche la possibilità del futuro. Ma siamo davvero sicuri che ci sia stata una mitica età dell'oro da rimpiangere? Guardo al secolo scorso e vedo guerre, macerie, stermini, odio ideologico, giovani che si sprangano, terrorismo, stragi, iniquità, disoccupazione, inflazione alle stelle e ingiustizie assortite. Per riprendere coraggio, per trovare ossigeno, mi sono rimesso a viaggiare nella memoria. Chi lo fa si sente immediatamente più forte. Se ce l'hanno fatta loro, possiamo farcela anche noi. Vado a leggere le prime lettere spedite alla rubrica dei lettori Specchio dei Tempi, inaugurata sulla stampa nel dicembre 1955, e mi stupisco del paese che ci siamo lasciati alle spalle. Ne trovo una dell'ottobre 1961, cioè dell'anno in cui l'Italia celebrava i 100 anni dell'unità e si sentiva forte e fiera. Sono una ragazza di 12 anni, sono sposata da pochi giorni e aspetto un bambino tra poco. Mi trovo in difficoltà perché mio marito lavora, ma lo stipendio è molto basso e non possiamo andare avanti bene. L'aveva spedita dalla Val di Susa non per denunciare la sua condizione di bambina incinta, sposa precoce, ma per chiedere un aiuto economico al giornale. Il problema erano i soldi, non il resto. Proprio all'inizio degli anni 50 venne istituita una commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria che certificò che più di un terzo degli italiani non mangiava mai carne, e non perché fossero salutisti e vegetariani, ma perché non se la potevano proprio permettere. Alla fine di quel decennio, il 30% delle famiglie cucinava utilizzando ancora la legna o il carbone. La miglior testimonianza che si possa leggere ancora oggi per capire da dove veniamo e quanta strada abbiamo percorso è un'inchiesta condotta dall'operaio Franco Alasia e dal sociologo Danilo Montali, è pubblicata nel 1960 con il titolo Milano, Corea. Fra le 32 storie che raccolsero c'era quella di Angela, 51 anni, pugliese, che faceva l'ortolana ambulante e abusiva nei mercati. Quel che ho passato, 18 figli ho avuto e sono morti in 10. Allora non c'era la penicillina, un colpo d'aria e morivano. C'era quella di Nino, 24 anni, ho fatto fin dall'età di 8 anni il mestiere di venditore ambulante in salumi, salami, sgombri, alici, sapone, di qualsiasi cosa. Ho lavorato a padrone da 8 anni fino a 15 anni, sempre lontano dalla famiglia, quando capitava per 6 giorni, quando 8, quando un mese. Anche un anno sono stato lontano da casa. Di notte doveva dormire con il cavallo che tirava il carretto e svegliarsi per dargli la biada, altrimenti erano frustate. Il suo italiano è quello sgrammaticato e dialettale dell'analfabeta. Ho partito una volta che mia mamma piangeva. A partire sotto la neve, a 8 anni, con un cappottino addosso, andavo verso Foggia. Le bestie scivolavano sulla neve con il carro e il padrone picchiava me. Per la rabbia che scivolavano, picchiava me. Ma io facevo quello che potevo perché ero piccolino. A scuola non ci sono andato perché mio padre era in galera e io lavoravo per aiutare la mamma, perché ci avevo un altro fratellino che aveva 2 anni e basta. Gli archivi, come i libri, sono miniere in cui si possono perdere gli occhi e le notti, ma regalano molta vita. Sorprese, indignazione, tenerezza e speranza. L'archivio che più mi appassiona, però, è quello che sta nella testa delle persone, nelle memorie, nei racconti familiari. Per questo mi sono messo a girare con un quaderno sempre in tasca per cercare di mettere a fuoco il nostro malessere e la nostra nostalgia, per provare a ricomporre frammenti di quel tempo in cui, pur facendo più fatica a vivere, c'era speranza nel futuro. La prima persona a cui racconto di questo libro e delle mie domande è un amico, che fa il manager in una grande azienda ed è nato nel 1961. Certo che avevamo una percezione più positiva della realtà. Pensa che a casa mia non avevamo neppure il bagno. Di giorno o di notte ti dovevi sempre vestire per uscire in cortile, ma là fuori c'era solo la turca. E per fare la doccia, io e mio fratello andavamo due volte alla settimana nel retro della panetteria dello zio, portandoci da casa il sapone e un sacchetto con la biancheria pulita di ricambio. Non ci lamentavamo, e io ricordo quasi con nostalgia il freddo di quella doccia, che serviva ai fornai per lavarsi all'alba quando avevano finito di fare le michette e i filoni. Mio padre non si vergognava, anzi sentiva l'orgoglio del fatto che i suoi ragazzi stavano studiando e presto lo avrebbero superato. I genitori avevano la certezza che i figli sarebbero stati meglio, e così il domani sembrava una cosa solida. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Mario Calabresi, Cosa tiene accese le stelle? Storie di italiani che non hanno mai smesso di credere nel futuro. Mondadori, 138 pagine, 17 euro. Letture di Radio 24. Dopo gli sciocchi bands dell'anno scorso, arrivano gli slaps, la nuova moda estiva per gli adolescenti. Perché queste manette di plastica piacciono così tanto? È il gadget dell'estate, si chiama slaps. L'edicola di Dario, in un piccolo paese della Brianza, vende una scatola di 12 pezzi la settimana. La comprano i bambini tra i 4 e i 12 anni. Si tratta di un braccialetto di silicone su cui sono impresse scritte a caratteri maiuscoli e in corpo grande: Summer, Fashion, Popstar, Love, Princess, Original. Lo si indossa con un gesto che è quasi un lancio. Il bracciale in forma estesa è un lungo cinturino rigido di plastica. Poi, con gesto improvviso, lo si percuote sul polso e repentinamente il bracciale l'avvolge. Un gesto che appassiona i bambini, che lo ripetono innumerevoli volte, come fosse una magia. Merito del meccanismo per cui da rigido diventa flessibile, dell'anima di metallo che compone l'interno del bracciale. Tanti segmenti che si irrigidiscono in forma allungata mentre si flettono percuotendolo. Il nome dell'oggetto viene dall'inglese to slap, che significa schiaffeggiare, ma anche buttare a casaccio. E c'è anche un altro significato nascosto e malizioso. Slap è pomiciare. Slap and tickle significa amoreggiare con toccatine. Slaps è un prodotto della stessa ditta che commercializza gli sciocchi bands, i braccialetti di varie forme che hanno impazzato la passata stagione. Qual è la ragione del suo successo? Sta nel gesto di cingere il polso percuotendolo col bracciale, ovvero nel passaggio dalla rigidità del cinturino alla presa circolare del braccialetto, che è di per sé un oggetto simbolico. Il braccio è infatti per definizione simbolo di forza e potere, e tutti gli oggetti che avvolgono il polso rammentano questa simbologia, la trasferiscono dal braccio alla mano. I bracciali legano e insieme difendono. Tuttavia, questo aspetto simbolico che le religioni e innumerevoli riti mettono ben in luce non basta a spiegare il successo travolgente di slaps, venduto alla modica somma di 3,50 euro a fronte di un valore industriale di 20-30 centesimi, il tutto prodotto in PRC, ovvero in Cina. Il segreto di slaps è nello scatto, sembra una morbida manetta. Lo slogan con cui lo pubblicizzano in televisione è «Fai scattare la moda». Lo si può leggere al contrario in questa strana estate. La moda di farlo scattare ai polsi. Siamo tutti in arresto, bimbi compresi? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Belpoliti, Slaps, l'estate delle manette di plastica, dalla stampa del 25 luglio. Tra gli eroi del Risorgimento che combatterono a fianco di Garibaldi, il più amato dal popolo romano era probabilmente Angelo Brunetti, meglio noto con il nome di Ciceruacchio. Nell'agosto del 1849, al termine della breve esperienza della Seconda Repubblica Romana, Ciceruacchio si diresse verso Venezia per aiutare la Serenissima nel suo disperato tentativo di resistenza contro gli austriaci. Nelle parole con cui Garibaldi si separa da lui, c'è quasi il presagio del triste destino a cui sarebbe andato incontro il capopopolo romano. Nel salutarlo gli disse: «Addio, angelo. Speriamo di rivederci presto sui campi di battaglia. Speriamo di combattere insieme per la libertà italiana». Egli rispose malinconicamente: «Oh sì, speriamo». E Garibaldi continuò il suo racconto. «Ciceruacchio mi diede un addio affettuoso e si allontanò coi figli. Ci dividemmo da quei virtuosissimi italiani per non rivederci. Con i suoi figli e altri 5 della disciolta legione garibaldina, Ciceruacchio pensò di raggiungere Venezia. Giunti nel Boscon di Mesola, si persero. Per gente non pratica di quei luoghi, non era facile orientarsi in un paesaggio incastonato fra le paludi e gli abbondanti canneti. Gli sventurati si riposarono per qualche ora su di un arginello, distrutti dalla fatica e dalla mente le immagini dello scampo degli austriaci, ma anche dei ricordi dei loro cari. Mentre erano adagiati sull'erba, furono avvicinati da un certo Domenico Chiereghin, detto Pelli, muratore di Contarina, che incominciò a chiedere da dove venissero e dove fossero diretti. I malcapitati risposero che venivano dall'altra sponda del Po, che erano garibaldini e dovevano raggiungere Venezia. Prima di lasciarli, il Pelli gli indicò la strada che dovevano prendere e si precipitò al distaccamento militare austriaco di Catiepolo per denunciare la presenza dei seguaci di Garibaldi nei dintorni della sacca degli Scardovari. Gli austriaci trattennero il Pelli, il quale, calata la notte, fece da guida alle pattuglie austriache spedite a perlustrare i luoghi indicati dal delatore. Gli 8 patrioti si diressero verso la località Bosco Mora. Sfiniti e affamati, si fermarono a mangiare nella casa di certi fratelli Giollo. Uno di loro, Joe Batta, per paura di rappresaglie degli austriaci nei confronti della sua famiglia, si recò anche lui a Catiepolo, rafforzando così la delazione del Pelli. Usciti dall'abitazione dei Giollo, si nascosero nelle vicinanze, sotto la pancia dell'argine di una valle, fino a notte inoltrata. Videro passare un uomo, lo fermarono e gli chiesero se poteva procurare loro il passaggio del Po e un imbarco per Chioggia o Venezia. In cambio, gli offrirono 100 scudi. L'uomo procurò il passaggio e li accompagnò fino a una località chiamata Argine di Mare. Li fece poi nascondere nella vicina valle, con la promessa che sarebbe ritornato per proseguire il viaggio. Questo individuo non fece più ritorno ed essi si trovarono abbandonati a ridosso di un luogo attraversato da una strada di passaggio. Passarono all'aperto ancora una notte. Sull'altra sponda del Po, le pattuglie austriache guidate dal Pelli erano alla loro ricerca. Fortunatamente avevano già attraversato il fiume, altrimenti il delatore di Contarina, che aveva appena intascato il premio in denaro che l'autorità austriaca aveva promesso a chiunque avesse fornito informazioni sui legionari garibaldini, li avrebbe fatti catturare. Alle prime luci dell'alba del 9 agosto, il sole nasceva dal mare sprigionando tutta la sua energia. Faceva molto caldo. Chissà come avranno trascorso la notte Ciceruacchio e i suoi compagni. A un certo punto si trovò a passare per la strada, detta Argine di Mare, il cursore del comune di San Nicolò, tale Santo Pizzo. Insospettito dalla presenza nella vicina valle di alcuni uomini, il Pizzo si recava a Catiepolo per relazionare al comando austriaco la loro presenza. A questo punto i nostri poveri profughi uscirono dalla valle e si incamminarono verso Ca' Farsetti. Arrivati ai primi edifici, che non erano altro che casoni di canna palustre intonacati con l'argilla del Po, privi di luce e d'aria, quasi delle catapecchie galleggianti sull'acqua, e rese ancor più tristi dal fumo e dalla caligine che contaminava tutto il paesaggio, chiesero di un'osteria. Fu loro indicato l'unica osteria del piccolo paese, sulla riva del Po. Stanchi, sfiniti, i poveri raminghi non riuscirono a toccare il cibo, perché arrivarono subito gli austriaci. Gli 8 sventurati furono incatenati e in mezzo a 2 ali di austriaci, condotti alla caserma di Catiepolo. Chi del gruppo sicuramente faceva stringere il cuore dalla compassione era un ragazzino intorno ai 13 anni, Lorenzo Brunetti. Camminava a fatica, sfinito dagli stenti patiti, e una volta giunti alla caserma furono rinchiusi a piano terra dell'edificio. La notizia dell'arresto dei legionari di Garibaldi si divulgò subito nei paesi vicini, suscitando molto stupore. I patrioti polesani avevano predisposto già da diversi giorni degli appostamenti nelle valli di Rivà e d'Ariano, con uomini di fiducia per accogliere i garibaldini fuggiti da Roma e accompagnarli fino a Venezia. I patrioti polesani non si persero certo d'animo e subito inviarono al comando superiore di gendarmeria un'istanza con la quale invocavano la liberazione dei carcerati di Katiepolo. Il distaccamento austriaco di Katiepolo era comandato dal primo tenente Luca Rocavina, croato, un uomo privo di qualsiasi sentimento di umanità e di giustizia. Una volta interrogati gli arrestati, mediante l'interprete Pietro Marchesi, il croato ordinò che venissero, senza perdita di tempo, immediatamente giustiziati. Gli arrestati offrirono una grossa somma di denaro al comandante, chiedendo in cambio che fossero condotti al quartiere militare di Cavarzere. Ma Rocavina aveva già preso l'atroce decisione di condannarli a morte. Chi più di ogni altro muoveva la compassione di tutti era Lorenzo, il figlio di Ciceruacchio. Per lui specialmente implorò la grazia il Marchesi, inginocchiato e lacrimante, promise di tenerlo con sé come un figlio. Il croato rispose: «Finitela, altrimenti faccio fucilare voi pure». Poi ordinò di requisire alcuni uomini per scavare le fosse. Intorno alla mezzanotte, tra il 10 e l'11 agosto 1849, il drappello tedesco comandato da Rocavina si avviava nel boschetto del Po di Venezia. L'esecuzione fu compiuta sulla riva del Po. A notte fonda furono condotti nel luogo del supplizio, legati due a due, e il padre per compagno aveva il figliolo. Lorenzo non ebbe un momento di debolezza e sereno fece la strada fino al luogo del martirio. Giunti nel luogo destinato all'esecuzione, vennero bendati e con le mani legate dietro la schiena furono disposti in fila. Ciceruacchio abbracciò per l'ultima volta i suoi due figli, infuse loro coraggio e li esortò a star saldi per dimostrare ai croati come i romani sappiano impavidamente morire. Poi strappò dagli occhi del piccolo Lorenzo la benda, esclamando: «Lorenzo mio, coraggio, guarda il cielo, viva l'Italia, muori da romano». L'indescrivibile misfatto fu inasprito dalla crudeltà del Rocavina, comandante del plotone di esecuzione, il quale, pregato dal padre della grazia di risparmiare il figlio tredicenne alla morte, ironicamente sorridendo la negò, anzi fece prima fucilare il figlio, che cadde semispento, facendolo poscia finire coi calci dei fucili, dinanzi agli occhi del padre, che esterrefatto dal dolore e non potendo vendicare tanta infamia, rivolse gli occhi al cielo, forse impetrando Iddio di scagliare la sua maledizione sopra i tiranni che si divertivano a rincrudire il dolore di chi non poteva in alcun modo difendersi. Le sue ultime parole furono: «Io muoio innocente. Perdono a chi mi fa morire con morte crudele e non meritata. Esorto i miei fratelli a non venir meno nella santa opera del nazionale risorgimento, a salvare la mia Roma dalle mani dei suoi oppressori». Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Claudio Modena, Ciceruacchio, Mursia Editore, 316 pagine, 20 euro.